Me put it in a cup of stock on the minivan. And take the seed and me make the ash oil. Me put it in the barrel, coming out with no squirrel. And I'm a swing to me own, I'm a swing to me. And I'm a swing to me own, I'm a and I'm a swing to me own. La mia stazione preferita è Studio 87.9 per la musica che spinge, per le lotte che promuove. La sua indole ribelle viaggia splendida nell'etere, dando voce a chi ne media non ha modo di potersi esprimere. Per questo io l'ascolto, la rispetto e la diffondo. Radio Onda Rossa, una finestra sopra il mondo, tra cultura e informazione che non senti altrove. Espressione della strada, espressione del tuo cuore. Compromessi inesistenti, distante da vincoli e censure, dalla reclame. Sempre vera in prima linea per abbracciare ogni giusta causa. Una voce che si fa ascoltare. Onda Rossa è la radio che vogliamo sostenere. Yeah, Radio Onda Rossa, senza padroni. Fila, fila, fila sta radio. Smoke out. It was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamento femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Seems we got a cheaper feel now, all the sweet tears are gone. Gone to the other side with my hands like a baby. There must have paid her a nice price, she's putting on a stupid love. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Honey, you bet your life. It's a peel out the watchword, just peel out the watchword. Ciao a tutte e ciao a tutti. Questa è la trasmissione della coordinamento femminista e lesbica, come tutti i mercoledì dalle 8 alle 9 di sera. Speriamo di essere sempre più puntuali, perché insomma ci stiamo provando. Questo mercoledì vorremmo aprire la trasmissione con uno slogan dell'AED Femminismo degli anni 70, che diceva, era una striscia che l'AED Femminismo, che era un consultore autogestito che stava qui a Roma, una striscia che aveva fatto per l'8 marzo del 79 e che aveva appiccicato su tutti i muri di Roma, e che diceva lottare 365 giorni all'anno. Dopodiché questo slogan è passato attraverso tante vicissitudini e ancora viene ripetuto, però insomma quella volta aveva riempito i muri di Roma. E questo perché vogliamo cominciare con lottare 365 giorni all'anno? Perché dopo il 25 novembre noi continueremo a lottare come sempre e cercheremo di lottare 365 giorni all'anno. So much. E proprio a questo proposito, la volta scorsa vi avevamo raccontato che proprio il 26 eravamo andate al Vittorio Colonna occupato e a parlare con le studentesse che ci avevano invitate, a parlare proprio non solo di violenza maschile sulle donne, ma anche di autodeterminazione e autodifesa, quindi affrontando la violenza sulle donne a tutto campo. E questa domenica, cioè due giorni fa, siamo state al Virgilio, al liceo Virgilio occupato, domenica pomeriggio, proprio per incontrare anche lì le studentesse di quella scuola. La scuola per noi è un ambito di intervento particolarmente importante, perché in effetti diciamo che ha una funzione importantissima in questa società, cioè quella di riprodurre e legittimare i ruoli. E noi stiamo facendo da tanto tempo come coordinamento un lavoro sui ruoli sessuati, sul riconoscimento e sul tentativo di scardinamento dei ruoli sessuati in questa società. Comunque la scuola riproduce e legittima anche le differenze di genere, non parliamo poi di quelle di classe, perché in effetti è catena di trasmissione dei valori dominanti. Oltretutto, che cosa succede? Che si maschera dietro una neutralità apparente. Una delle caratteristiche che ha la scuola è quella di presentarsi come un luogo sacro del sapere, no? E quindi neutrale. Mentre in effetti fin dalla primissima infanzia, prendendo come scuola anche quella la scuola materna, non fa altro che riprodurre quelli che sono i modelli approvati dalla società, no? Per esempio nel nostro caso il modello che serve adesso non è più quello che serviva fino a qualche anno fa, perché i modelli si spostano, non sono sempre gli stessi, non sono fissi, non sono immutabili, però rispondono sempre a una scala di valori che questa società che è funzionale a questa società. E quindi una volta era quello della madre, della sposa esemplare, adesso invece per esempio il modello è di una donna che deve saper conciliare i figli, il marito, il lavoro di cura e il lavoro all'esterno. Se avete un po' di pazienza, adesso ci colleghiamo con una compagna che è stata proprio al Virgilio e che ci racconterà com'è andata, però mi dovete dare il tempo di fare il collegamento. Pronto? Pronto, ciao. Pronto, bene, ci senti? Ci sentiamo, allora ci sentiamo. Ciao a tutte, ciao a tutti gli ascoltatori. E quindi vorremmo che tu ci raccontassi com'è andata al Virgilio domenica. Allora, siamo andate al Virgilio, che è occupato da una settimana ormai, e ci hanno chiesto di fare questo corso in particolare sul femminicidio, sul nuovo decreto sul femminicidio, e poi diciamo abbiamo allargato anche il discorso alla violenza di genere e poi anche a il femminismo, cosa significa, che percorsi si propone, eccetera. È stato un incontro molto bello, molto partecipato. A noi piace sempre, insomma, fare questi incontri nelle scuole, perché è un'occasione di dialogo non soltanto per loro, ma anche per noi, insomma, perché si rimettono un po' in moto i ragionamenti dal momento in cui c'è un linguaggio molto meno politicizzato e già in qualche modo pieno di preconcetti e sovrastrutture. Insomma, si riesce a parlare di grandi temi a partire da piccole cose quotidiane. Quindi c'erano tanti ragazzi e ragazze, ovviamente, anzi forse la partecipazione femminile è stata più alta. E abbiamo incominciato quindi un po' a contestualizzare questo nuovo decreto sul femminicidio, quindi diciamo a inserire il discorso per cui in nome di una presunta tutela delle donne e del loro corpo si introducono una serie di misure repressive di controllo sociale. Quindi abbiamo fatto un po' un excursus recente, diciamo, dei provvedimenti recenti. Siamo partite da il pacchetto sicurezza del 2009 e siamo arrivate al nuovo decreto sul femminicidio, un po' anche sottolineando come si è spostato l'asse da che la violenza era un fenomeno che veniva additato agli stranieri, che quindi veniva consumato per strada. Questo nuovo decreto lo riporta, diciamo, a quello che è la violenza domestica, ma comunque come emblema, diciamo, di questa strumentalizzazione, la violenza contro le donne. Ovviamente abbiamo parlato delle norme specifiche che sono state inserite nel decreto sui NOTAV. Ma poi in generale ti volevamo chiedere qual era stata la tua impressione durante l'iniziativa, cioè nel senso la risposta che c'era stata da parte dei compagni e delle compagne che hanno occupato il Virgilio, insomma. Molto, molto positiva, erano molto partecipativi, non avevano nessuna, diciamo, soggezione, appunto. Cioè si è riusciti a parlare di questi temi riportandoli anche un po' al quotidiano. Quindi per quanto riguarda il femminicidio, io ho trovato molto interessante il fatto che si è cercata una definizione di questo concetto, per cui ci è stato anche chiesto, diciamo, in una serie di casi se potesse essere definito femminicidio o meno, anche mettendoci un po' in crisi, perché sono stati fatti degli esempi del tipo quando una donna uccide l'altra per passionali e d'amore, quello è un femminicidio o meno, oppure quando senza arrivare all'uccisione, però la violenza maschile, che significa che viene, può essere esercitata soltanto da un maschio in senso di proprio sesso biologico, oppure anche se diciamo qual è appunto la definizione di femminicidio. Cioè ad esempio c'è stato un ragazzo che è intervenuto e che ha aperto un grande tema, e cioè il fatto di, ma quindi quando un uomo esercita una violenza su una donna sta esercitando la sua superiorità fisica? E lì ho diciamo, mi ha fatto molto, sono stata molto colpita in positivo ovviamente dalla risposta delle sue compagne, che hanno subito tenuto a rimarcare il fatto che non si tratta semplicemente di una superiorità fisica, ma diciamo anche morale, cioè che quando un uomo esercita una violenza su una donna, soprattutto se a lei è legato da un rapporto sentimentale, c'è una certa sorta di sentimento così di impunità, no? Cioè si sente in buona compagnia, è una cosa che lo fa sentire forte. Infatti quando abbiamo spostato un po' il discorso su forme di violenza meno limite, ma più quotidiane, quindi delle prevaricazioni che ci sono quotidianamente tra maschi e femmine, che quindi possono accadere, cioè nei licei come in tantissime altre situazioni quotidiane, è stato bello, c'è stato un grosso scambio tra di loro, insomma. In generale li ho trovati particolarmente partecipi. infatti è durato molto, siamo rimaste fino alle 9 di sera. Sì, no, no, quindi sì. Insomma ci fa piacere sapere che insomma è partecipato un incontro del genere. Insomma è un tema che magari si pensa, almeno in generale, che attragga di più, insomma coinvolga meno poi quella fascia d'età, perché effettivamente insomma sappiamo bene che insomma la presa di coscienza anche rispetto al femminismo comunque è un lavoro abbastanza importante e profondo, insomma, quindi devo dire anch'io ero là, sì, e insomma aver visto, aver sentito soprattutto gli interventi e la qualità degli interventi che venivano fatti rincuora insomma rispetto a quello che è la visione poi esterna del femminismo, insomma. Sì, anche perché ad esempio quando si è cominciato a parlare di cosa significa identificare un oppresso e un oppressore, lì anche è stato molto stimolante, perché appunto sono proprio loro che hanno tirato fuori il problema del ma quindi il femminismo si rivolge, cioè si deve rivendicare, diciamo, un'azione sia di autodifesa che poi di attacco e rivendicazioni da parte delle oppresse, oppure si deve fare un lavoro anche sugli oppressori? E lì anche gli interventi sono stati molto di qualità, insomma, molto approfonditi. Comunque non è un discorso che è rimasto, diciamo, sulla superficie. Mi sembravano anche parecchio ingaggiati, insomma, nella discussione. E senti, una domanda che da esterna, ma il termine femminismo, per esempio, ha significato qualcosa in questo tipo di discussione, oppure è qualcosa che viene sentito come esterno e non coinvolge le giovani generazioni? Guarda, sulla diciamo la domanda specifica un po' così lanciata lì l'abbiamo fatta più a un altro liceo dove siamo andate la settimana scorsa, al Colonna, piuttosto che al Virgilio. Sul femminismo al Virgilio appunto c'è stato questo discorso su come ci si riconosce, come si riconosce di essere un soggetto oppresso e se si deve fare questo lavoro appunto in momenti separati o meno. Cioè c'era per esempio un ragazzo anche tra i più giovani, credo, che diceva sì, ma anche i maschi dovrebbero, cioè si dovrebbe spiegare, diciamo, no, ai maschi che non devono comportarsi in questo modo, che non devono esercitare questa violenza, questa superiorità sia culturale che fisica, eccetera eccetera. Diciamo, secondo me è stato il momento in cui si è toccato più da vicino ciò che è il femminismo. Poi magari abbiamo un po' parlato di più noi della nostra esperienza, di come lo intendiamo noi e di quanto se ne abbia bisogno, mentre invece nel liceo dove siamo andate la scorsa settimana, al Colonna, abbiamo proprio fatto una domanda esplicita, cioè quando qualcuna dice di essere femminista, quando sentite questo termine cosa vi viene in mente? E lì devo dire che c'è stata una reazione inaspettata, nel senso che soltanto una ragazza più attiva, diciamo, nell'ambito politico, per me femminismo è quello che mi dicono i compagni più grandi, e cioè che sono delle donne che ti spaccano, diciamo, che rompono le palle, fanno le cose tra di loro, eccetera eccetera. Ho fatto questa domanda perché, siccome essendo della generazione di quelle lì, insomma, no? Però invece allora le altre ragazze erano state molto più positive. Una per esempio ha detto che le ricorda la sua nonna partigiana e le esperienze, insomma, i racconti che le faceva della resistenza. Un'altra le ha detto che oddio, non mi ricordo più, forse Noemi si ricorda qualcos'altro. Comunque c'erano state delle visioni positive, diciamo. No, sì, mi era sembrato anche a me che effettivamente c'è un intanto mi sembra che, se non ricordo male, una ragazza quando ha fatto un intervento ha immediatamente iniziato l'intervento dicendo, palesando ovviamente la differenza tra il femminismo e il se non ora quando, quindi insomma già quello ti fa capire è che, una insomma, consapevolezza di fondo, almeno hanno capito, no, che insomma quello non è proprio non è femminismo. E poi sì, cioè nel senso proprio esperienze personali, cioè nel senso anche di mamme, mi sembra di ricordare, comunque insomma appunto di madri che hanno sono femministe e quindi hanno trasmesso in qualche modo poi anche questo portato politico ai loro, alle figlie, ai figli. Sicuramente sì, poi mi ricordo. Abbiamo notato pure insomma una, anche una grande voglia di mettersi in gioco, cioè questo non ci è sembrato molto che, come succedeva spesso prima, la parte maschile tentasse di rubare lo spazio femminile, ma tentasse più che altro di capire, di comprendere come poter, cioè nel senso proprio come a livello politico, come prospettiva politica, poter inserire anche loro qualcosa insomma per far cambiare effettivamente le cose, cioè nel senso c'era una volontà di discussione e di messa in analisi comunque di quelli che sono poi i problemi che riguardano la questione di genere. Sì, sì, sicuramente sì, una volontà di capire è emersa, insomma, di capire di che cosa si parla. Un'altra cosa tra l'altro è stata anche di per esempio il concetto di antisessismo, cioè c'erano alcune ragazze che dicevano: quando ci sono dei luoghi politici che diciamo si professano antifascisti, antirazzisti e antisessisti, però diciamo questi concetti non sono radicati poi nella non stanno a livello di consapevolezza in ognuno, e quindi dicevano forse l'antisessismo, prima di attribuircelo, dovremmo fare un'analisi di come ci comportiamo quotidianamente, di tutti i luoghi comuni che alla fine portiamo avanti a un livello sia conscio che inconscio, ma di cui facciamo fatica a liberarci perché non ne vogliamo parlare. Anche questa mi è sembrata una riflessione molto avanzata. Certo, è un tipo di esperienza che in effetti io, per me è importantissima, ma anche noi come coordinamento, quando abbiamo pensato a una cosa del genere, l'abbiamo sempre considerata importantissima, ancora quando abbiamo impostato il discorso sulla memoria e sul confronto generazionale dell'incontro nazionale, era questo lo spirito di mettere in discussione anche il ricordo che c'è del femminismo e quello che è stato fatto passare come femminismo, e vedere un attimo di riannodare quel filo tra chiamiamola la generazione degli anni 70 e quella che adesso magari può non riconoscersi assolutamente in un certo tipo di pratiche. Va bene, allora la prossima volta decideremo dove andare. Sì, speriamo di moltiplicarli questi incontri anche in altri licei, perché sono proprio dei momenti importanti, li trovo molto importanti. Va bene, allora grazie del contributo grazie esterno. Grazie mille. Questa volta al telefono. Per questa volta al telefono, ciao. Ciao. Allora, ciao. Can be deep the shade of blue. When you're feeling low, oh, to whom else do you go? See, I'd cry if you hurt, I'd give you my last shirt, because I love you so. Thank you. did you carve me in a tree? Don't fill my heart with lies. I will love you when you're blue. Tell me, darling, true. What am I to you? La parentesi di Elisabetta. Ciao a tutte. La scelta delle donne. L'oppressione che subiamo è trasversale allo spazio e pur manifestandosi in modi diversi attraversa tutte le classi e le frazioni di classe. L'oppressione che subiamo è trasversale al tempo e pur manifestandosi in forme diverse attraversa i tempi storici. Il femminismo parla spesso di sorellanza, un afflato che dovrebbe unire chi subisce una stessa oppressione. Ma le donne fanno delle scelte e sono scelte consapevoli. La lettura patriarcale che le scelte delle donne siano quasi sempre conseguenza del legame con un maschio, della sua influenza positiva o negativa, di un grande amore o di un amore perduto, o dell'incapacità o dell'impossibilità di amare. La lettura patriarcale che le scelte delle donne siano dettate da istintività, poca razionalità, sentimento, senso di sacrificio, amore per la cura o isterismo o perdita di senno, non ci appartiene proprio, anzi la rigettiamo con forza. Le donne sanno benissimo scegliere e scelgono. Scelgono anche da che parte stare. Scelgono strade di liberazione o scelgono di perpetuare il dominio patriarcale e di contribuire a opprimere le altre donne, a seconda di dove si collocano. Alcune scelgono di essere mie sorelle, altre scelgono di non esserlo. Bye.

I'd cry if you heard. I'd give you my last shirt because I love you so. E ora volevamo darvi degli appuntamenti, tutte e due per il 6 dicembre. Uno, ne avevamo già parlato precedentemente in altre trasmissioni, che riguarda il processo d'appello per lo stupro all'Aquila, e processo insomma che vi ricordiamo della ragazza che fu stuprata da un militare che appunto teoricamente doveva difendere secondo le istituzioni il territorio, un territorio che è militarizzato e che ovviamente perpetua la cultura dello stupro attraverso i suoi apparati militari, politico e giuridici. E quindi insomma c'è un appuntamento convocato dalle compagne per andare all'Aquila insieme alle 7 di mattina a Scalo San Lorenzo di fronte al parchetto, quindi tutte quante le compagne che vogliono insomma raggiungere e dare la propria solidarietà durante questo appello per lo stupro, insomma si presentassero alle 7 di mattina a Scalo San Lorenzo. Comunque per qualsiasi informazione c'è la mail militari all'Aquila tutto attaccato @anche.no, per appunto mandare mail per avere magari altre comunicazioni più specifiche. E insomma questo è il primo appuntamento che volevamo darvi. Would you find a love in me? Would you carve me in a tree? Don't fill my heart with lies. I will love you when you're blue. Tell me, darling, true. What am I to you? Allora, adesso ci siamo collegati con una compagna che invece ci parla dell'altra data, sempre il 6 dicembre, e quindi adesso lascio la parola alla compagna della Sapienza che ci descrive un po' come sarà la giornata del 6 a Roma. Ciao. Sì, ciao. Ciao a tutte. E niente, come saprete, infatti esistono vari appuntamenti nella mattinata. E c'è appunto il concentramento di piramide per quanto riguarda gli studenti medi e gli studenti universitari di Roma 3. Dopodiché invece dalla Sapienza abbiamo deciso di concentrarci alla Minerva e di partire in corteo per raggiungere gli altri studenti e andare insieme a sediare il Dipartimento delle Politiche Giovanili. E volevamo sapere anche come mai avevate scelto Perché appunto abbiamo deciso di chiamare questa giornata sulla spinta comunque di tutte quelle che sono state le sollevazioni di quest'autunno, e quindi visto qual è stata la portata anche politica rispetto appunto alla composizione che è scesa in piazza in queste giornate, abbiamo pensato che la soluzione più giusta fosse portare in piazza chi effettivamente produce, i giovani che effettivamente producono conflitto all'interno della città. Quindi insieme studenti medi, universitari, giovani occupanti di case, giovani precari, giovani che occupano gli studentati o che occupano appunto mense o biblioteche in giro per tutta Italia, abbiamo deciso insieme di provare a fare questa cosa, insomma a sediare il Dipartimento delle Politiche Giovanili. Rispetto a tutto quanto quello che ci siamo detti, appunto si continua a destinare soldi a infrastrutture inutili, si continua a destinare soldi a progetti che non hanno nulla a che vedere rispetto a quella che sono le condizioni degli studenti, si continua a tagliare sulla formazione, si continua a tagliare sui servizi. Non a caso appunto scenderemo in piazza anche con gli studenti che occupano in questo momento, stanno occupando il De Lollis, poiché ci sono 906 donne esclusi dalle borse di studio e quindi che non riescono, in questo momento stanno per strada e non hanno possibilità di andare a trovare un alloggio. Quindi abbiamo deciso di assediare il Dipartimento delle Politiche Giovanili, farlo tutti insieme per far vedere appunto chi è la gioventù oggi, che cosa pensa la gioventù, e far appunto lanciare una vera e propria sollevazione giovanile rispetto a quelle che sono le nostre condizioni materiali in un periodo di crisi come questo. Ok, va bene, ti ringraziamo del tuo intervento e della giornata del 6 e quindi dai, tutti e tutte in piazza. Ciao. Ciao. Ciao. Allora, ciao a tutte e ciao a tutti di nuovo, cominciamo la nostra seconda parte, che è una parte abbastanza corposa perché ci potremo prendere un po' più di tempo, dato che la trasmissione che ci dovrebbe essere, ci doveva essere dopo di noi ed è prove tecniche di trasmissione, oggi stasera non ci sarà, malattia di stagione, niente di grave. Però quindi tornerà mercoledì prossimo e noi potremo un attimo andare un po' più avanti. Allora, in Francia si è aperto un grosso dibattito. Perché? Perché è al voto la legge sulla prostituzione ed è una legge proposta in particolare da una deputata socialista che si chiama Maud Olivier. Maud Olivier ha presentato un rapporto sull'argomento già dal mese di settembre-ottobre e oggi è relatrice del disegno di legge insieme a Guy Geoffrey, penso che si legga, che è del centrodestra. Olivier può contare sul sostegno di alcune figure di spicco come il ministro delle pari opportunità Najat Vallaud-Belkacem. Allora, che cosa succede? Che la legge sulla prostituzione in Francia ha dei connotati particolarmente, cioè prima di tutto il fatto che si pensi di fare una legge che riguarda la prostituzione e quindi un legiferare su tutta una serie di comportamenti. Tanto noi ce la siamo scaricata, l'abbiamo analizzata punto per punto. Comunque intanto cominciamo a dirvi che cos'è. Allora, che cosa prevede questa famigerata proposta? Tra le misure principali c'è quella di sanzionare i clienti della prostituzione con una multa di 1.500 euro, il doppio in caso di recidività. Saranno creati anche degli stage di sensibilizzazione alle condizioni di esercizio della prostituzione, simili a quelli imposti ad esempio ai consumatori di sostanze stupefacenti. La legge prevede inoltre di lottare contro i siti internet legali legati al racket e di abolire il delitto di adescamento passivo. Infine, dovrebbero essere creati dei percorsi di uscita dalla prostituzione e altri strumenti di accompagnamento per le persone che desiderano abbandonare la strada. Persone, tra virgolette, perché il testo con cui, secondo i suoi sostenitori, non fa differenza tra i sessi e sarà applicato uniformemente a chi si prostituisce. Allora, per esempio, prendiamo un giornale qualsiasi, Il Fatto Quotidiano di mercoledì 4 dicembre, perché oggi proprio doveva andare all'approvazione all'Assemblea Nazionale, poi passerebbe al Senato per l'approvazione definitiva, però comunque oggi era il giorno fatidico, quindi non sappiamo poi in effetti come sia andata, ma al 99,9% tutti hanno fatto capire che questa legge molto probabilmente passerà. Le polemiche sono state tantissime, perché prevede appunto, come diceva prima Noemi, multe ai clienti, stage rieducativi, come dice appunto questo articolo del Fatto Quotidiano, programmi di assistenza per le vittime. Le polemiche sono rimaste fuori tutte dal Parlamento, soprattutto sui giornali e nei programmi TV. La Francia chiede il pugno duro contro i clienti, in sostanza la via svedese, perché fu il paese scandinavo ad aprire quella strada contro i clienti nel lontano 1999. Anche se Parigi Volevo solo aggiungere che ricordiamoci che anche qua a Roma Alemanno fece la stessa cosa con la multa a chi si fermava per adescamento di prostituzione. Ecco, cioè tutto il mondo è paese, com'è, o comunque tutto un certo tipo di mondo e tutto un certo tipo di paese. Allora, anche se Parigi in realtà ha optato solo per le multe e non la prigione, come ha fatto la Svezia e in altri paesi europei. È la novità più importante del progetto di legge francese, e questa riguarda le ammende. Come diceva prima Noemi, i clienti delle prostitute, una volta intercettati dalle forze dell'ordine, saranno passibili di una multa di 1.500 euro. I recidivi vedranno salire l'ammenda a 3.750 euro. Niente carcere invece, come chiedevano inizialmente alcuni deputati, proprio sul modello dei paesi che in Europa hanno scelto la stessa strada. La Svezia prevede, oltre a una multa da stabilire sulla base del reddito del cliente, pure 6 mesi di prigione, al pari della Norvegia, mentre in Islanda si può arrivare ad 1 anno e a 10 anni in Slovacchia. Aiuto. Pawn shops glitter like gold tooth caps. In the gray decay, they chew the last. Ovviamente le pene sono maggiorate se la prostituta è minorenne. Ma anche nel caso francese, sulla base della legge precedente, comporta una pena di 3 anni per chi vada con una prostituta che non abbia compiuto 18 anni e una multa di 45.000 euro. La giustizia francese può inoltre anche imporre al cliente di una prostituta lo stage, appunto, di cui si parlava anche prima, di sensibilizzazione alla lotta contro l'acquisto di atti sessuali. Può essere una pena alternativa alla multa o complementare. E gli stage, per chi deve recuperare, cioè, sono come quelli dei punti della patente, cioè, nel senso, sì, una sì, serie di scadenze, di visite, insomma, non sappiamo bene come funzioneranno nella loro struttura effettiva. Però non so se purtroppo a qualcuno è mai successo che vi abbiano tolto la patente per, che ne so, guida in stato di ebbrezza perché avevate superato di 0,02 il limite. Più o meno, cioè, tutte le menate che ti fanno fare sono simili anche per questo, solo che ci chiediamo che cosa ti fanno fare in uno stage di sensibilizzazione alla lotta contro l'acquisto di atti sessuali. Comunque, continuiamo. Il reato di adescamento era stato introdotto nel 2003 da Sarkozy, allora ministro degli interni. Viene eliminato dalla nuova legge, quindi. E non sono più quindi le prostitute ad essere punite, adesso sono i clienti. Per il reato si prevedeva 2 mesi di carcere e 3.750 euro di ammenda. Quindi, insomma, una parte molto grossa della legge è quindi dedicata alle soluzioni per aiutare chi si presta a questa pratica. E aiutare come se ci avesse bisogno di essere aiutato, vabbè. E soprattutto in classe, con particolare attenzione a persone immigrate e in clandestinità. Però non si parla di tratta qua. No, praticamente questa è la prostituzione, quella. Scusate, sono male. Sconvolta, e quindi ogni volta che rileggo delle cose mi sconvolgo da sola e faccio: ma che è stata di? Di fatto i punti salienti di questa legge sono 3. Allora, 1. È il fatto che la prostituzione è sempre considerata una cosa che viene fatta, diciamo, mai una scelta. La prostituta è sempre una vittima di qualche cosa, ed essendo vittima di qualche cosa deve essere aiutata a uscire da questa situazione di degrado in cui è finita per qualche ragione, quindi non necessariamente per la tratta. Ci sono poi le punte per cui una è vittima di tratta, per cui una è vittima di violenza, ma questo è un altro ambito. Qui stiamo parlando di quella che è la prostituzione, quella classica, in cui una si prostituisce da sola, no? Allora, cioè tutte le configurazioni altre di violenza sono a margine, qui parliamo proprio della prostituzione. Allora, la prostituzione viene vissuta, cioè viene letta da questa legge, proprio come la donna e anche il maschio, ma cioè perché viene considerata prostituzione in generale, quindi anche i maschi che eventualmente si prostituiscono, come una cosa degradante, una cosa sbagliata, una cosa immorale, e quindi che deve la donna, soprattutto perché soprattutto di donne si tratta, deve essere salvata, tra virgolette. Ma poi infatti è sempre questo il discorso, no? Perché appunto molto spesso capita che sul discorso della prostituzione si finisce a parlare del fatto vabbè, ma là come fai a scegliere una cosa del genere, se non ne avessi necessità non lo faresti. Oltre al fatto che non è vero, perché non è una questione nemmeno di necessità economiche, perché ci sono esempi anche lampanti comunque di persone, di donne che hanno deciso di fare la prostituta, magari perché questo sistema economico è capitalista, neoliberista, e quindi ti spinge ad avere più soldi e con, cioè nel senso, col massimo del profitto e il minor numero comunque di ore lavorative e di, ovviamente, di fatica, quando comunque poi quello che ti propongono è di farla precaria e di spaccarti la schiena. E non si pensa mai che in realtà forse, cioè nel senso, vederla in modo moralistica quella la questione è proprio il modo per guardarla nella maniera più sbagliata, perché appunto non si mette a fuoco il fatto che comunque già può essere una scelta. Poi noi, se in una società altra, anche perché stiamo parlando davvero, cioè nel senso, questo si può dire, il mestiere più vecchio del mondo, in una società altra, allora ci sarebbe stato un sistema differente in cui la donna non si prostituisce o l'uomo non si prostituisce, perché in questo caso anche la prostituzione maschile non è da non tenere conto. Ovviamente qua si riferiscono sempre a donne, perché poi leggiamo nelle righe, ovviamente, insomma, la cosa riferita alla minorenne, all'immigrata, alla clandestina, alla povera ragazza. Però poi alla fine queste leggi non servono assolutamente ad aiutare, come insomma si definiva prima, né finanziariamente, né socialmente, né politicamente, poi la condizione effettiva, nel caso poi si parli poi di esseri umani che abbiano bisogno di essere aiutate, cioè non capisco proprio come si possa tornare indietro. Cioè addirittura associazioni diciamo più o meno istituzionali o comunque insomma rinomate si sono opposte dicendo che qua si tornava indietro ai 60 anni. Eh sì, infatti il uno appunto è questo punto che la donna o comunque la prostituta è vittimizzata e quindi è comunque un essere da salvare. E non reprobo perché ci saranno state delle ragioni sociali, no? Ricordiamoci sempre che quella che ha proposto la legge è una socialista e quindi la vede in questo e quindi la donna viene sempre vittimizzata. Il secondo punto importantissimo è che è una legge di tipo repressivo, cioè il fatto di prendere di punta i clienti vengono perseguiti con ammende, con multe e su questa falsariga si potrà procedere eventualmente in questo caso della legge francese no, ma è sull'onda anche di provvedimenti punitivi di tipo penale, non fa altro che riproporre il proibizionismo di vecchissima memoria che da quello dell'alcol a quello sulle droghe ha portato a danni inenarrabili, perché nel momento in cui si attuano delle misure di tipo repressivo